9 in punto, la versione di Oscar. Oh, how elaborate flies the end of everything that stands the end. No safety or surprise the end. Buongiorno cari ascoltatori, buon martedì 3 di aprile e un augurio a Riccardo, visto che questo è il nome del festeggiato nel calendario liturgico. Allora, oggi rinvio le notizie sul euro andamenti nella ripresa della seconda parte, entro subito nel merito perché gli ospiti di questa prima parte ci vorranno poi presto lasciare. L'argomento della giornata è la ricerca, i papers, come si dice, che è stato pubblicato nella serie di Occasional Papers della Banca d'Italia settimane fa, a febbraio. Il suo autore è Giovanni D'Alessio, che ieri ha fatto scrivere a tutti i media italiani e è stato ripreso dai telegiornali, dai giornali radio, cifre e andamenti della concentrazione della ricchezza italiana, la concentrazione della ricchezza italiana in questi anni di crisi, e ha fatto comprensibilmente, da un certo punto di vista, scrivere a tutti sugli effetti ulteriormente negativi che la crisi avrebbe nella distribuzione del patrimonio nel nostro paese. Ci sono due criteri attraverso i quali statisticamente, economicamente, rilevare gli andamenti di dispersione o concentrazione della ricchezza di un paese. Naturalmente il primo ha a che vedere con il conto economico, quindi con la dispersione e concentrazione dei redditi. Il secondo ha a che vedere con gli stock, cioè con i patrimoni, con i diversi asset di ricchezza accumulata, siano essi mobiliari o immobiliari. Gli argomenti toccati da tutti i temi e dalle ricerche che hanno a che vedere con la redistribuzione delle risorse devono partire da questo presupposto, da una fotografia analitica di come stanno le cose e di come evolvono nel tempo, naturalmente con l'idea di paragonarli da paese a paese per capire come le diverse strutture di concentrazione o dispersione di ricchezza e di redditi fotografino nel tempo gli andamenti di quel paese dal punto di vista di questo che è uno dei criteri che da sempre giustamente più preoccupano coloro che vogliono misurare gli effetti del ciclo economico e delle organizzazioni pubbliche e private ed economiche di un paese intorno agli effetti sociali. Allora, io voglio chiedere agli ospiti di aiutarmi a capire perché, visto il rilievo che sui media aveva questo papers, io ne conosco l'autore, l'autore si chiama Giovanni D'Alessio, ma non lo avevo letto, quindi io ho visto solo i giornali di ieri e poi mi sono detto andiamolo a leggere. Andandolo a leggere vi dirò le tre ragioni all'inizio, che sottoporrò poi agli ospiti di oggi, per le quali io mi sono trovato a vivere ieri una giornata ancor peggiore di quanto non fosse cominciata con la trasmissione che abbiamo dedicato ieri ai temi fiscali. Perché? Perché i tre punti di fondo che tutto il concerto prevalente dei media ieri mandava agli ascoltatori, ai telespettatori e ai lettori italiani era concentrato su tre messaggi netti, semplici, chiari e molto preoccupanti, molto preoccupanti. Primo messaggio era: l'effetto della crisi è che si concentra ulteriormente la ricchezza, cioè i più ricchi diventano più ricchi, i più poveri diventano più poveri. I 10 italiani più dotati di patrimonio ne hanno quanto i 3 milioni di italiani più poveri. Primo messaggio secco: i ricchi più ricchi, i poveri più poveri, quindi ingiusto, come ovvio. Secondo messaggio, come stiamo andando? Stiamo andando di male in peggio, cioè l'effetto della crisi è quello di peggiorare ulteriormente questa distribuzione di ricchezza iniqua. Terzo messaggio, questo è implicito a dire la verità, siamo un paese in cui questa tendenza è più accentuata che altrove. Allora, io la ricerca l'ho letta, non mi impanco a maestro di nessuno, umilmente credo di essere un imbecille, perché evidentemente inizio a pensare in maniera diversa su troppe cose, e è probabile che per questo appunto non sia più all'altezza di gestire un programma quotidiano. Ma la questione è questa: io ho qui la ricerca in mano, vi leggo sui punti testuali su cui mi sono trovato a interrogarmi sul perché è meglio che ci dia un taglio con questo mestiere, che non è quello con cui pago le tasse, cioè quello del giornalista, perché mi sento un imbecille e non so più a che santo votarmi, perché giuro che l'ultima cosa che voglio fare è ritenere di poter insegnare qualcosa a qualcuno. Io ho solo da imparare. Però sta di fatto che Giovanni D'Alessio, il dato su cui tutti hanno titolato e che è stato il lancio di un'agenzia dietro a cui per effetto imitativo i media sono andati, e cioè il famoso dato dei 10 italiani che hanno in mano la stessa quantità di patrimonio del 3 milioni di famiglie italiane, quello è un dato che infatti per quello non mi stupiva, perché è un dato del 2006 che nel papers di D'Arrigo non campeggia affatto come straordinaria nuova acquisizione degli effetti che sulla ricchezza e diseguaglianza in Italia avrebbe la crisi. Assolutamente no, non c'entra niente con la crisi. È un dato, ripeto, che trovate a pagina 8, se vi andate a scaricare si può farlo liberamente sul sito della Banca d'Italia, la ricerca di Giovanni D'Alessio. Quindi questo dato non è un dato nuovo e non è un dato che ci dica nulla di quello che sta succedendo in questi anni. Tanto per essere chiaro. Seconda questione, la questione cosa sta succedendo per effetto della crisi sulla concentrazione o dispersione della ricchezza nelle famiglie italiane. Allora, poiché questo era uno dei punti su cui ero più incuriosito, perché io ho seguito i dati fino al... sapevo che avevamo i dati fino al 2008, non ignoravo se ci fossero elaborazioni di dati successive. Lo studio di D'Alessio conferma esattamente che noi abbiamo i dati solo fino al 2008, ma conferma che negli anni precedenti al 2008, negli anni 2000, per la precisione negli anni 2004 e 2008, noi siamo arrivati alla crisi con un effetto che è l'esatto opposto di quello che i media ieri hanno raccontato, cioè non era affatto in corso una concentrazione della ricchezza nelle mani degli italiani più ricchi, bensì il coefficiente di Gini, che è l'indice tecnico attraverso il quale si misura la concentrazione o la dispersione, stava scendendo, cioè noi siamo arrivati alla crisi con gli anni precedenti che registravano una distribuzione più larga, più equa, meno ingiusta della ricchezza tra i diversi decili di reddito del nostro paese. Ripeto, la distribuzione stava diventando meno concentrata, non più concentrata, perdonate, è l'esatto opposto di quello che ieri i titoli vi hanno fatto pensare, ed è inequivoco quello che c'è scritto nella ricerca di Giovanni D'Alessio, che ricostruisce, e questo lo si sapeva, ci sono tanti studi su questo, lui si allinea a tutti gli studi che mi erano noti, nel ricostruire nel tempo come va la disuguaglianza, stiamo parlando, ripeto, dei patrimoni, non del reddito, e l'andamento della disuguaglianza ha una curva diversa negli anni, ritorna, c'è un massimo per così dire che viene toccato tra il 93 e il 2000 ed è quello del 1987, e poi riscende, come vi ho detto. Negli andamenti della distribuzione della ricchezza per diversi decili di reddito si notano due grandi tendenze, e queste sono note a chi si occupa della faccenda in Italia. La prima è che gli anni in cui la borsa tira sono anni in cui c'è una parte di reddito che va di più al capitale, ecco, quelli sono gli anni in cui di solito la distribuzione del patrimonio premia di più i decili più alti. quando la borsa va male, la cosa si riequilibra, ma soprattutto c'è un rumore di fondo, un grande Big Bang la cui eco c'è nell'avvaloramento molto forte nei decenni del patrimonio degli italiani. Gli italiani hanno molta più ricchezza adesso di prima, quindi questa rappresentazione di un paese impoverito deve fare i conti col fatto che noi abbiamo quadruplicato lo stock di ricchezza delle famiglie dagli anni 60 a oggi. Ecco, detto questo, questo rumore di fondo è dato dal fatto che è sempre stata in costante ascesa la percentuale di proprietà immobiliare tra le famiglie, cioè proprietà di prima casa all'inizio degli anni 70 erano un poco meno del 50%, prima di arrivare agli anni 2000 al 70%, adesso siamo quasi all'80%. Allora, questi due diversi andamenti, che si equilibrano in tempi diversi, in maniere diverse, spiegano perché c'è questa tendenza. Però, fine di questo secondo punto, quello che sappiamo per il momento dai dati dello stock patrimoniale degli italiani è che siamo arrivati alla crisi con una attenuazione dell'effetto di concentrazione della ricchezza, non con un ampliamento. Terzo fatto, come stiamo messi rispetto agli altri paesi? E anche qua D'Arrigo spiega testualmente che secondo le ricerche che ci sono note e che lui cita, Davis, Sandom, Shorrock, Wolf, eccetera, non vi sto a citare tutti gli economisti, 2008-2009, rispetto a paesi come Svezia, Stati Uniti, Regno Unito, Canada, Germania e Finlandia, noi stiamo messi meglio, cioè il loro indice di concentrazione della ricchezza è superiore al nostro, superiore al nostro. Allora, questo è quello che io ho letto nella ricerca che ieri ci ha fatto tutti ragionare intorno al fatto che in Italia vi sarebbe un fenomeno accelerato dalla crisi, di fortissima sperequazione e su cui interrogarci. Questo fenomeno c'è, certo i dati ci dicono che c'è, ci dicono però che l'avvaloramento dello stock della ricchezza degli italiani è più forte o più debole rispetto a quello di altri paesi nei decenni alle nostre spalle? È più forte. Ci dicono che si stava peggiorando o migliorando fino agli anni della crisi, di cui ancora non sappiamo niente, in effetti. Quando dico niente, non dico stime lì per lì, dico studi veri fatti con tutti i dati riaggiornati e riparametrati a prezzi correnti. Per il momento sappiamo solo che quando siamo arrivati alla crisi stavamo andando meglio e non stavamo andando peggio, cioè avevamo una distribuzione migliore. Infine ci dicono che rispetto agli altri paesi loro hanno una percentuale di ricchi che detengono più totale di risorse di quanto capita tra noi. Non ho detto affatto che questo significa che dobbiamo essere felici e contenti, non ho detto affatto che non sia molto discutibile che i 10 italiani più ricchi abbiano quanto i 3 milioni. Aggiungo tra l'altro che in quei 10 italiani a me in realtà ogni volta mi colpisce come in pochi notino che sono tutti o quasi self-made men, non sono dei rentier che hanno ereditato dai papà e dai mamà, perché alla fine il patron di Luxottica si è fatto da solo. Michele Ferrero, che ha 80 e rotti anni, ancora fa affidare i figli che ogni tanto vogliono fare qualche operazione seguendo i finanzieri e gli dice no, e si è inventato e ancora assaggia le miscele di cioccolato nella sua azienda, e magari ci fossero di quei tipi ancora lì in giro per l'Italia a decine di migliaia e a crederci. Quindi da questo punto di vista, però, io ho finito la mia introduzione, ho spiegato perché ieri mi sono sentito un imbecille e chiedo a questo punto aiuto ai nostri ospiti che vi presento. Abbiamo Dario Di Vico del Corriere della Sera, buongiorno. Buongiorno. E Rinaldo Gianola, che è vice direttore dell'Unità, buongiorno, grazie Gianola. Buona giornata. Allora Di Vico, hai scritto anche tu, tutti ti abbiamo letto, ti chiedo di commentare la ricerca, poi se ti va di dire qualcosa su questa mia perplessità, sulla mia capacità di capire come si creino questi fenomeni, può essere pure che io non sappia più leggere, se ti va di dire qualcosa su quello che ho detto, bene, ma la cosa fondamentale è che cosa ti ha ispirato invece per capire meglio l'Italia in cui viviamo, questa ricerca di D'Arrigo. Ma io vedo in questi giorni un intensificarsi di quella che ha chiamato statistica spettacolo, perché noi abbiamo assistito nel giro di poco tempo a uno studio sugli stipendi su dati presunti Eurostat, che poi è stato smentito e si è detto che erano stati calcolati male. Nei giorni scorsi è stata distribuita a cura del Ministero dell'Economia una tabella che diceva che i contributi all'erario dei lavoratori dipendenti erano più alti di quelli dei loro datori di lavoro. È intervenuto 24 ore dopo Attilio Befera per dire che quella tabella era largamente imprecisa. Poi siamo arrivati alla diffusione nella domenica pomeriggio di 3 righe di un paper di D'Alessio che fa riferimento a un suo precedente lavoro del 2006 e quindi che evidentemente era fatto su dati almeno 2003. Ecco, c'è una statistica spettacolo che non aiuta, perché se noi vogliamo dire che siamo in presenza di una profonda questione sociale, sì, è giusto, è così, e probabilmente è anche vero che non sappiamo come uscirne a livello di policy, no? Si fatica nella crisi ad affrontare diciamo con successo ad aggredire con successo questo problema. Ma la statistica spettacolo non aiuta la già difficile operazione sia dei poveretti come noi che cercano di interpretare, ma soprattutto dei decisori, per cercare di rimettere in viaggio la locomotiva italiana. Insomma, ecco. Quindi io unisco sia gli aspetti di metodo di comunicazione che gli aspetti di merito. Sono d'accordo con Oscar che evidentemente noi non sappiamo ancora bene, cioè intuiamo che la crisi abbia aggravato tutti gli elementi di contraddizione della società italiana e quindi presumiamo che anche sulla distribuzione abbia giocato un ruolo negativo. Presumiamo, ci rifacciamo a indicatori molto spannometrici, diciamo, quando avremo gli strumenti statistici più precisi potremo valutare. Aggiungo che proprio sul mio giornale questa mattina il presidente dell'Istat, Enrico Giovannini, ha scritto una lettera proprio per anche lui biasimare la statistica spettacolo, ovvero quella particolare immissione nel circuito mediatico all'ora giusta e al tempo giusto di dati monster che servono ad avere a chi li emette un quarto d'ora di celebrità. Allora, so che ci devi lasciare tra poco, per questo ti chiedo però anche di aggiungere una cosa, perché io non vorrei che poi, io spero che chi ascolta sappia che con la durezza e la passione con cui tentiamo di riflettere sulla durezza che colpisce con la crisi la piccola impresa italiana, gli artigiani, i commercianti, seguendo molto quello che tu scrivi da tanto tempo anche sul Corriere della Sera, non possa far alimentare un equivoco. Non è la maniera in cui vogliamo riflettere su come dare i dati, su come l'informazione deve essere responsabile, non è affatto una maniera per sottovalutare gli effetti di una crisi che anzi fa arrabbiare molti quando poi trovano battute di politici che dicono ma la crisi è risolta, abbiamo fatto i compiti a casa eccetera eccetera, quando invece continua a mordere con profondità. Ti chiedo, Dario, poi ci lasci e proseguiamo con Rinaldo Gianolo su entrambi gli aspetti. Per quello che intuiamo, è appunto una piccola impresa che tra pretese fiscali in forte crescita per quello che il governo ha dovuto fare, aggiungendo a quelle precedenti già deliberate dalle manovre estive dell'anno scorso. Una domanda interna che piatta nella migliore dei casi, visto che il reddito disponibile di famiglie viene eroso dal reddito e di crescita non ce n'è. E se andiamo avanti a questo tasso, andiamo a un anno in cui è più vicino almeno 2 che almeno 1% di crescita. Un'Europa che continua a preoccuparci perché gli spread risalgono e risaliranno per quello che si vede. Allora, in questo quadro ti chiedo, hai l'impressione che già sia maturo un tempo nel quale molti inizino a pensare era lecito aspettarsi di più da questo governo proprio rispetto ai problemi dell'economia reale, pretese fiscali rispetto alla piccola impresa che è la spina dorsale del paese, oppure anche questa è una falsa impressione di questi giorni sull'articolo 18, ma nella realtà secondo te c'è ancora un vasto margine di intervento che questo governo può avere su questo punto? Ma Oscar, come sai il nodo è diciamo la crescita e la domanda è se come si genera crescita. Ora noi è passata, come dire, alla storia, se mi permetti, la battuta dell'ex ministro Tremonti che la crescita non si fa per decreto, e penso che in questo caso, pur avendo io diciamo diverse volte avuto occasione di polemizzare col ministro Tremonti, questa frase sia giusta. E vedo che anche il governo Monti ovviamente fatica, perché noi non dobbiamo dimenticare che un pezzo significativo della crescita italiana era in qualche modo sussidiato, aiutato dal budget pubblico. Ora, come produrre crescita in una fase di recessione con il budget zero, semplifico, mi sembra che non lo sappiamo, perché è evidente che una cosa di questo tipo significa più impresa. Cioè, io non credo francamente che appunto si possa pensare che ci siano delle politiche pubbliche, dei bottoni nenniani, diciamo, da premere nella sala, ecco, sì, esatto, comando. E questo lo dico francamente, sia se nella sala c'è Giulio Tremonti, sia se nella stessa sala si avvicenda Mario Monti. Onestamente dobbiamo fare questo sforzo di pragmatismo. Quindi la domanda è: sul terreno della crescita il governo ha deluso? Secondo me sì, nel senso che in qualche maniera ha autorizzato aspettative che invece non poteva soddisfare. Secondo me sarebbe stato un po' più prudente dire che noi facciamo delle politiche che agiscono su fattori che in tempo differito favoriscono la crescita, ma come dire, i tempi di questa distanza e le modalità non esiste tecnico che possa metterle giù. E la verità, adesso io la brutalizzo, la semplifico, è che la crescita la fanno gli imprenditori, non c'è niente da fare, la fa l'impresa con le idee, andando su nuovi mercati, con nuovi prodotti. Per esempio, io non penso solo all'export, che è ovvio, ma mi faccio un altro esempio: noi abbiamo un mercato interno in cui grosso modo ci saranno dai 13 ai 15 milioni di famiglie con redditi intorno ai 1.800 euro, adesso a spanne, era un calcolo che aveva fatto il professor Campiglio, lo riporto sì, così, ma per carità, insomma, non voglio… Beh, insomma, ci sono… noi abbiamo anche un Made in Italy troppo aristocratico, invece in qualche maniera il mercato interno va servito anche con prodotti che siano di una certa qualità, ma nello stesso tempo siano segmentati e quindi costino meno, ad esempio. Quindi voglio dire, quando parlo che la crescita la fanno gli imprenditori, non solo con straordinarie e sono necessarie, come dire, storie di successo, hai nominato Del Vecchio e se ne possono nominare degli altri, quindi non solo con queste cose, ma anche con una maggiore capacità di rapportare prodotti e strategie anche all'evoluzione del mercato e quindi ad esempio a servire un mercato che è molto più attento al prezzo di quanto fosse prima. Ecco, quindi non dico solo ci servono i geni per la crescita, che è un'ovvietà, dico anche che ci servono anche uomini di impresa più attenti a capire, a leggere la società e a quindi a fare le proposte giuste. Insomma, potrei citare, a me colpisce per esempio i dati di questi giorni, che Calzedonia per esempio dice che apre 200-300 negozi, ci sono i dati di H&M che cresce ancora a doppia cifra. Come no, come no. Quindi vuol dire in realtà che poi non è che il mercato è una cosa stranissima. È chiaro che queste sono testimonianze del fatto che chi sa servire meglio la fascia, certo, molto attenta, perché il reddito appunto tende a diminuire e quindi ovviamente tutti stanno molto più attenti, quindi lì c'è un problema di capacità poi di fare politiche commerciali, franchise eccetera, rivolto esattamente ad avere margini molto stretti ma su quantità molto forti. Io ti dirò la verità, Dario, io sono deluso sempre più dal fatto che, siccome il problema di fondo secondo me è un'Italia a bassa produttività molto figlia dell'intermediazione pubblica. Per intermediazione pubblica non intendo solo la casa, intendo le moltissime migliaia di imprese che vengono a patti da tanti anni con uno Stato che poi sceglie prezzi, tariffe, finte gare, nella sanità ma dovunque, cioè vasta parte del mercato interno ha bassa produttività per come il pubblico si è organizzato e per come l'economia poi è venuta a patti con questo pubblico, che è il grande problema, che poi non è facile ovviamente svellerla questa roba qua. Di fronte a questo la mia grande delusione è che se un governo dei tecnici che non ha il problema del voto politico, che non è capace di dire, come è avvenuto in ogni grande paese europeo, qua c'è un progetto chiaro che deve essere fatto di 5, 6, 7 punti di PIL di spesa in meno in 3-4 anni per meno tasse all'impresa e al lavoro, se non lo fanno loro e non lo stanno facendo, mi dispiace, quindi oramai mi pare che abbiano già iniziato a perdere il grip, non lo fa nessuno. Io credo che quello sia il problema fondamentale, uno dei problemi fondamentali, perché poi le le piccole imprese italiane, per come registriamo noi tutti i giorni la situazione, stanno messe molto peggio della metà del 2009, perché il margine si è ulteriormente ristretto, perché le banche stanno peggio oggi di allora, perché la presenza dello fiscale dello Stato si è molto accresciuta rispetto ad allora e perché il mercato interno ha meno reddito disponibile per far squillare i loro telefoni. Quindi noi registriamo questa condizione, non la facciamo per partito preso e non la facciamo per soffiare sul fuoco di nostalgie ingiustificabili del passato, però di fronte a questo io temo che stia diventando troppo tardi non dire che c'è un problema che riguarda lo Stato, che il problema è quello delle pretese dello Stato, che il problema è quello della simmetria dello Stato, che il problema della spesa pubblica non coincide affatto con i livelli di prestazione di servizi sociali offerti ai cittadini, che sono meno della metà del totale della spesa pubblica. Se non lo dicono loro, ma chi lo deve dire? E loro replicano, e capisco, noi non abbiamo il mandato politico per incidere in cose di questa proporzione. Non lo so, perché qui non è questione di politica, perché il problema della politica è dividersi su come poi li offriamo, però a risorse minori, i migliori servizi ai lavoratori che perdono il lavoro o alla sanità. Lì posso capire che ci si ridivide di nuovo sinistra e destra, sempre che ce ne sia una che non sia padronale e servile nel nostro paese. Ma prima, se noi non siamo capaci di dire ai lettori e agli ascoltatori e loro, a tutti gli italiani, c'è un problema di eccesso troppo elevato di drenaggio di risorse pubbliche che derivano da uno Stato a bassa produttività per gli amici degli amici e che riguarda molti punti di PIL, di acquisizione di beni e servizi succhiati dall'amministrazione pubblica con metodi non efficienti, non di mercato, non trasparenti, se non lo dicono loro, ma chi cacchio bisogna aspettarsi che ce lo dica per smuovere l'Italia, cosa che è molto difficile. Grazie Dario, intanto pubblicità. Poi torniamo con Rinaldo Gianola. Eccoci tornati in studio, siamo partiti dall'Occasional Papers della serie della Banca d'Italia, Giovanni D'Alessio l'autore, da come i giornali lo hanno presentato e da quello che c'è scritto davvero. Questo non per dirvi che la situazione è rosa, perché non lo è affatto, e non che non si dovrebbe cambiare in profondità il sistema con cui viene governata e indirizzata, perché bisognerebbe farlo, anche se ovviamente le opinioni su questo sono diverse. Allora, chiedo a Rinaldo Gianola, anche lui, se vuole dire o non dire qualche cosa su quello che è successo sui media italiani per quel papers, ma soprattutto poi di andare al punto della faccenda, cioè come la pensa lui di cosa stia avvenendo sulla iniquità di distribuzione italiana, di una crisi che a me pare ben lungi dall'essere risolta alle spalle, come lo stesso Monti si lascia andare con toni che francamente non capisco. Ma senti, tu sai benissimo per esperienza anche personale che quando nelle redazioni dei giornali o delle televisioni arriva una ricerca della Banca d'Italia piuttosto che di Mediobanca o di qualche grande istituto italiano, e naturalmente c'è anche un lead, un titolo così accattivante come quello che dice che 10 italiani hanno il patrimonio di 3 milioni di italiani, beh, diciamo il lavoro è già fatto, no? C'è già un titolo, si fa un tetto, si fa un servizio televisivo, tra l'altro di grande impatto mediatico, perché certamente un titolo è un argomento molto sensibile. L'aspetto poi più tecnico, cioè che sono dati non aggiornati, un'elaborazione un po' vecchia e così via, poi passa purtroppo in secondo piano, ma questo devo dire non è una novità, insomma è una cosa che i giornali e le televisioni quasi sempre fanno in queste occasioni, utilizzando il nome prestigioso di chi realizza questi studi e di chi li diffonde. Anche se però alla lunga, perdona Bernardo, cioè il tacere che noi sulla distribuzione, questo riguarda sia i redditi che i patrimoni, sia pure in maniera diversa, sulla distribuzione comparata rispetto agli altri paesi avanzati, noi stiamo meglio, non stiamo peggio, a non dirlo negli anni è chiaro che poi c'è un effetto chiaro, perché la gente dice noi siamo il paese più iniquo, quando siamo non quello più giusto, ma uno dei meno rispetto a quelli molto più iniqui, ecco tutto qua. Sì, però devo dirti anche che la seconda parte del tuo ragionamento che facevi prima non la condivido pienamente, perché io penso invece che questi anni siano stati anni di profonda iniquità, e se posso aggiungere un'osservazione devo dirti anche che quello che sta facendo il governo Monti, il governo dei tecnici, non valorizza una prospettiva di, non dico di uniformità, ma diciamo di maggior giustizia degli interventi. Insomma, noi siamo di fronte a un momento e a interventi di politica economica che sono gravemente penalizzanti per una fascia larghissima di, chiamiamo di famiglie e anche di imprese. Di famiglie, no? Di gente che ha avuto l'orizzonte della pensione molto allontanato, di gente che ha a basso reddito disponibile e a basse qualifiche, e piccola impresa più pecchiata della grande. Guarda che su questo la pensiamo uguale. Ci sono stati alcuni elementi in questi mesi di emergenza, diciamo, politica ed economica, che sono passati senza colpo ferire. Ora, noi possiamo dire che il sistema pensionistico andasse riformato, non andava bene, per carità, ma dall'oggi al domani siamo passati da un sistema all'altro, al retributivo, al contributivo, e non ci sono state, diciamo, reazioni clamorose, no? C'è stato uno sciopero di 3 ore, insomma, la gente ha accettato, e bisogna dire che ci sono milioni di italiani la cui prospettiva, la cui attesa di vita profondissimamente. È mutata dalla sera alla mattina, perché il ministro Fornero gli ha cambiato la legge. E hanno mostrato una responsabilità, direi, quasi senza eguali rispetto a tutti gli altri paesi avanzati. Poi però dobbiamo andare anche a altre cose. Adesso io mi aspetto la rivolta dell'IMU. La rivolta dell'IMU, perché la gente, io ho l'impressione che le famiglie, i cittadini, non abbiano ancora capito della stagnata che sta arrivando, e il 16 giugno, quando bisognerà aver pagato questa nuova tassa, la reintroduzione di questa nuova tassa, io penso che gli italiani si desteranno molto colpiti da questa situazione, ed è una situazione, secondo me, di grande ingiustizia, perché nel frattempo che tu imponi nuove tasse, riduci ulteriormente il potere d'acquisto dei lavoratori, dei dipendenti, delle famiglie, gli proponi anche magari una riforma del mercato del lavoro, che adesso vediamo come salterà fuori, come sarà scritta, ma in cui qualcuno immagina che gli riduciamo la cassa integrazione, gli ammortizzatori sociali magari te ne riduco un po' adesso, e poi con la prospettiva di darti fra 5 anni, nel 2017, un assegno di un'indennità di disoccupazione. In più magari posso anche avere la possibilità, vediamo un po' come si può fare, di licenziarti senza il reintegro. Beh, insomma, qui stanno cambiando alcuni elementi fondamentali della nostra società, belli o brutti che siano, poi possiamo discutere e dividerci su questi argomenti, ma insomma, qui in una situazione in cui ieri sento il Presidente del Consiglio Monti, che è rientrato dalla Cina, ha detto che praticamente in Europa la situazione di crisi è superata. Io sono osservazioni e valutazioni che sorprendono, secondo me, cioè la gente non pensa affatto che la crisi sia superata, cioè si attende un anno disastroso. Se vogliamo prendere altre statistiche, spettacolo o non, come possiamo definirle, la stessa Banca d'Italia ha detto non più tardi di qualche settimana fa che il 10% della popolazione italiana ha il 50% del patrimonio di tutti gli italiani, che il potere d'acquisto dei nostri salari, delle nostre retribuzioni è tornato a 10 anni fa. In una situazione in cui i prezzi al consumo stanno salendo e i consumi stanno crollando. Allora, in questa situazione, io, perché bisogna fare un seminario, una trasmissione tra economisti, ma si dividono e discutono meglio, ma è possibile che non si possa pensare come politica, come obiettivo politico, di politica economica, di un governo, dei tecnici, di ridurre le tasse sui salari, di dare qualche euro in più in busta paga ai lavoratori, alle loro famiglie, che magari poi riaprono un ciclo di consumi, di investimenti delle imprese? Di tutto questo sembra che chi lo propone sia un gruppo di deficienti, capito? Perché poi fanno la lezione e dico no, ma c'è lo spread, e di questo dobbiamo parlare. Allora, oggi intanto io penso che la signora Fornero non sia mai andata a mangiare una pizza, perché dice delle cose che non stanno nel cielo né in terra su questi argomenti. Conoscendola so che ci va, quindi questo devo difenderla. Andare in certe pizzerie torinesi che non lo conosco. Perché lei, Mario De Aglio, non conducono una vita, insomma, voglio dire, non stanno rinchiusi in chissà quale giro di Salotti o di Casagnelli, che non c'è più da tempo. Però insomma, voglio dire, per capirci. Sì, però certo. La cosa sulla quale sono totalmente d'accordo con te è che questa cosa di non particolare, insomma, intelligenza, ma di autoevidenza, e che mi confermi anche tu dal tuo punto di vista, non dovrebbe dividere la politica, perché è incomprensibile che la divida, cioè le meno tasse sul lavoro e sull'impresa, e quindi significa il dover anche identificare meno spese coerenti, perché bisogna farle preservando il saldo pubblico, che questa roba qui non venga da questo governo è quasi incomprensibile. Cioè, ripeto, loro dicono noi non possiamo entrare in questo perché nella parte meno spesa la politica ci morde e ci dice che non abbiamo il mandato, però il problema è che così, aggravando solo il peso della pretesa statale su coloro che sono il 99% dell'impresa italiana, la piccola, la micro, gli artigiani, i commercianti, eccetera, eccetera, che sono stremati, secondo me, molto più del 2009. E dall'altra, pesando con contributi e tassazioni e addizionali e IMU, quindi tutto, e con anche le imposte indirette a settembre che arrivano aumentate, sulle fasce di consumo più basse dell'Italia, quindi domanda che va ancora peggio, io non so come si possa reggere che non possiamo intervenire perché la politica altrimenti dice che non abbiamo un mandato, perché è autoevidente che noi con l'Italia così la affondiamo, la facciamo andare di male in peggio. Noto tra l'altro che oggi ritorniamo sulla prima pagina del Financial Times con un titolo che dice gli obiettivi dell'Italia a rischio, quindi se ne stanno accorgendo anche fuori, e a quel punto ci troviamo con gli spread che risalgono, e io non voglio immaginare che se risalgono gli spread noi a fine anno da questo governo ci dobbiamo aspettare a settembre magari una nuova manovra con ulteriori aggravi per chi sta peggio, ulteriori aggravi per chi sta peggio con la scuola che gli spread salgono, perché il rischio c'è tutto, perché i miei amici all'economia mi dicono guarda che noi siamo impegnati all'azzeramento del deficit del 2013 e se l'economia va male, va male, va male, e l'IVA interna quindi scende rispetto e non è pareggiata da quello che in più facciamo con la lotta all'evasione, noi purtroppo nuove entrate dobbiamo fare. Io ho detto voi siete matti cari ragazzi, cioè non esiste proprio che voi ragioniate in una prospettiva di questo tipo. E ripeto, poi Renato scrive su un giornale che l'Unità ovviamente ha una prospettiva politica, una mission politica, ma noi siamo la radio di Confindustria, ma se alla fine diciamo cose analoghe, ma è possibile mai che siamo tutti impazziti e hanno ragione loro? Su questa domanda andiamo alle informazioni stradali e poi torniamo con Rinaldo Gianola. Ripartono i Doors, nel frattempo qualche flash all'Europa, il Belgio ha di nuovo la stampa e media che sono incandescenti perché si sono resi conto che devono tagliare altri 24 miliardi di euro per fare il pareggio del bilancio nel 2015. Anche il Belgio, come l'Olanda, inizia a avere ripercussioni politiche ai conti elaborati del Fiscal Compact. Beh, insomma, per l'economia belga 24 miliardi di euro in due anni non sono pochi, per essere chiari. Poi mi limito a segnalarvi oggi sul Financial Times, la parte del Financial Times sul sito che dedica editoriali alla questione dell'eurocrisi, trovate Honorel Rubini e Arnab Das che continuano a scrivere che alla luce delle ultime due settimane e del dopo vertice europeo di venerdì a Copenaghen sul fatto che si è scelto lo strumento salva stati e salvabanche con sole 500 miliardi di dotazione aggiuntiva, non fino a 1000 come si poteva fare, un trilione di euro, a maggior ragione scrivono che sarebbe bene che l'euroarea ragionasse sull'ipotesi concreta di come governare un possibile break up, cioè una rottura dell'area dell'euro. Ipotesi, scrive Rubini e scrive Arnab Das, che non è affatto tramontata dopo il fallimento pilotato e quindi ordinato senza conseguenze di effetti domine della Grecia. La pensa invece all'opposto Martin Sandbu, ma io leggendo tutti e tre gli editoriali devo dire che mi convince più Rubini di quanto non mi convincano gli altri che la pensano diversamente. Torniamo al tema da cui sono partiti. Gianola, da questo punto di vista il governo, visto con la prospettiva di più di sinistra con cui lo guardi tu e i tuoi colleghi sull'Unità, hai detto la Fornero non va in pizzeria e non capisce, ma dal punto di vista di spesa e tasse, l'obiezione che loro fanno, guardate che non possiamo perché non abbiamo il mandato politico su questo, ha un senso, visto che per esempio sulle pensioni l'hanno fatto in 5 minuti, io ho anche applaudito, avrei pensato che lo facessero anche sul resto, però perché a quel punto pensioni sì e il resto no? Perché erano solo gli spread non reagirebbero alla questione del meno tasse invece su piccola impresa e lavoratori dipendenti, secondo te? Ma sai, secondo me, adesso a parte della pizzeria naturalmente non ha battuta, però il fattore delle pensioni è un esempio determinante e secondo me loro contano di avere lo stesso risultato a livello di credibilità internazionale con la riforma del mercato del lavoro, no? Pensioni e lavoro, e i mercati sorridono e tutti ci fanno i complimenti. Quella del mandato politico secondo me è un po' una giustificazione, una scusa, perché se tu vedi in questi giorni la stessa maggioranza che sostiene questo governo della riforma delle pensioni e del mercato del lavoro sta discutendo anche di cose, di riforme ben più radicali, no? Si parla della riforma elettorale, si parla in modo esplicito della questione della comunicazione, della RAI, degli assetti istituzionali, perché tra un anno ci sarà da cambiare anche il Presidente della Repubblica dopo il voto. E quindi insomma il mandato politico probabilmente, se questa maggioranza sollecitasse Monti a riceverlo, ci sarebbero grosse difficoltà. Il problema forse è che, il problema più evidente in questo caso, è che se tu in questo momento fai una politica economica che prevede un allentamento della pressione fiscale sul lavoro, sulle piccole imprese, qui ci vuole una fortissima credibilità politica e soprattutto una fortissima credibilità internazionale. Sì. Però nel momento in cui tu proponi una politica di sacrifici così forte, sì, altrettanto al converso, io dico che tu devi avere altrettanta credibilità e fiducia politica, cioè tu devi avere la capacità anche di incidere in questo momento su privilegi, strutture di privilegi esatto, consolidati, che sono la vera, diciamo, una delle vere cause, una delle tante cause ma evidenti dell'ingiustizia sociale in questo paese, ma che se tocchi ti provocano poi un'ondata tanto interna che internazionale di stima e consenso. Io, per me questo è un mistero, per esempio questo che stai dicendo. Cosa devo pensare? Devo pensare che comandano i padroni griffi, altrimenti, cioè comanda la tecnostruttura di consigliere di Stato, di consigliere della Corte dei Conti, la vera spina dorsale tecnica dei capi di gabinetto, quelli gli unici che sono diventati capaci di scrivere i provvedimenti, che li scrivono proprio uso e consumo. Non sto parlando di vantaggi personali, quindi patroni griffi, per carità, non mi quareli pure lui. Sto dicendo che però c'è una casta di vertici tecnico-amministrativa che è diventata depositaria della scrittura, della sua promulgazione, del parere interpretativo, dell'asseverazione, rimbalzandosi tra diversi tribunali amministrativi di prima e seconda istanza. Io vedo che poi alla fine loro sono diventati il blocco quasi più insuperabile della stessa volontà politica. Parli con i politici e dicono: ma io vorrei, mi dicono che non posso, mi dicono vai a chiedere, sono sempre loro. Non lo so se questo è diventato il problema fondamentale, però io sono d'accordo con da diversi punti di vista, partiamo da diversi punti di vista, con questo inizio di delusione sempre più tangibile. E non è una delusione nostalgica, è una delusione consapevole del fatto che dovevamo cambiare marcia perché l'Italia sta andando al baratro, ma una cosa è sicura: con lo stesso passo delle pensioni bisognava continuare a correre bersaglierescamente contro grandi interessi, grandi interessi non solo della casta, ripeto, continuo a dirvi che ci sono pacchi di migliaia di imprese che fanno affari con il mercato non trasparente pubblico italiano, sta lì, non negli sprechetti della casta, che sono tanti e sono gravi e sono evidenti, ma sta lì il grande grasso da incidere. Ma quello che bisogna fare è pensare alle tasche dei milioni di famiglie italiane che hanno meno e alla possibilità di sopravvivere della spina dorsale della piccola impresa italiana. Piccola impresa italiana non è inefficiente, piccola impresa italiana è la spina dorsale di un paese, e un quarto di quelli esportano insieme ai grandi e medi, che chiaro che sono quelli che ci reggono sui mercati internazionali e con 22 punti di produzione industriale riescono in valore, malgrado un volume così più basso, a reggerci con gli stessi valori del pre-crisi nell'export. Però il problema è che questo è diventato sempre più evidente. Io, di fronte all'idea che bisogna aspettare un altro anno, le elezioni e il casino sulla legge elettorale prima di vedere che si sposti qualcosa su questo, con le cose che vanno di male in peggio, inizio a pensare che, non so, siamo nelle mani di persone che possono pensare legittimamente di non avere un mandato elettorale, ma l'Italia andrà di male in peggio. Ecco, questa è la conclusione alla quale siamo arrivati sentendo Dario Rivico, Rinaldo Gianola, punti di vista diversi. Però io concludo: dobbiamo essere anche consapevoli, fare informazioni significa non riproporre cose come quella di ieri, perché altrimenti delle due l'una, visto che mi pare che la conclusione è che non sono troppo imbecille, forse continuo ancora a fare cose come oggi, ma quando accadono cose come ieri io sento semplicemente che sono fuori posto. Grazie a tutti, appuntamento a domani.